140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Spazio più Arc, Milano. Su Sky torna X Factor. Insieme ai nuovi giudici Fedez e Victoria Cabello e al confermato Morgan, c'è ancora uno degli artisti più amati. Mica. Io ho sempre lavorato con tutte le persone che mi hanno criticato per farmi crescere. Non mi hanno criticato, ma ci sono anche quelli che mi hanno criticato per buttarmi fuori, ma questa è una cosa diversa. Perché ho lavorato da 11 anni e ho iniziato nella musica classica. Questa idea di essere duro, ma costruttivo è la cosa la più importante. La più importante. E anche non abbiamo tanto tempo. Lo so che sembra come abbiamo un anno per lavorare con tutti, ma infatti questo non è vero. Abbiamo un periodo molto molto intenso con tante cose da fare e non c'è tanto tempo per lavorare con i talenti. Allora dobbiamo lavorare in un modo molto efficace, onesto, veloce, per fare qualcosa di bello. Allora ieri ho iniziato a lavorare con la mia squadra e ho avuto una bellissima giornata, una delle più belle che ho avuto su un programma di questo genere dall'inizio della stagione l'anno scorso. Boom, boom, boom. Qu'importe l'endroit, le contexte, on a toujours un bon prétexte pour tomber nos foot of the loom. Quand toi et moi on fait boom boom boom, quand t'es pas là je fais n'importe quoi, je prends les kilos des tequila, je chante les chansons d'Oum Kalsoum, je ne pense qu'à nos boom boom boom. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime, pour le voir pas besoin d'un zoom, quand toi et moi on fait boom boom boom. Su quel palco, per scherzo, hai provato a cantare a cappella davanti al pubblico, ai giudici. Ti sei emozionato? Sì, perché ho realizzato che fa paura, ma veramente fa paura di fare questa cosa. È come un'arena con i gladiatori. Ma non so se loro hanno... Se hai visto, ma infatti avevo detto così, semplicemente... Anch'io voglio cantare, perché c'era una performance che mi è piaciuta, anch'io voglio cantare. Non mi ricordo, sì, c'era una performance, anch'io voglio fare cantare questo. Dopo c'erano quelli dietro nel pubblico che hanno sentito e non mi hanno lasciato in pace senza cantare. Allora ho detto, dai, va bene, lo faccio, io posso farlo. E ho provato di farlo e anche ho fatto un errore di tonalità all'inizio. Sì, avevo una roccia nella pancia, devo dire. This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. Pick up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. Anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell. Tu cosa hai imparato facendo questa trasmissione l'anno scorso? Perché tu eri lì anche per insegnare, ma a te cosa hanno dato i concorrenti? Tanto. Infatti ci sono due cose. Mi sono ricordato di questo sentimento che avevo quando iniziavo. Quando avevo 17 anni con il mio demo fuori di un ufficio di una compagnia discografica, parlando con tutte le segretarie, aspettare fuori all'auto dove c'è l'entrata per parlare con tutti che possono parlare con me, veramente fare il hustle, entrare in qualsiasi modo che potevo. Questo aspetto di fame è molto importante, di essere di avere contatto con le persone che hanno questa stessa ambizione, perché è così che ho iniziato da molto giovane, anche noi possiamo essere un po' in questo mondo in questo lavoro, con le persone che lavorano da tanto tempo, con questo aspetto un po', in inglese si dice jaded, un po' il pericolo è di non sentire più le piccole cose, questa paura, questa nervosità, questo piacere nelle piccole sfide, questo sentimento di questa voglia. E si vede con tanti artisti quando fanno le interviste, quando fanno i concerti, non c'è questo aspetto, questa desesperazione che è assolutamente importante. Allora, mettermi in gioco con tutti questi giovani talenti in questo modo è veramente un'altra cosa, perché nel mio mondo non c'è una possibilità di essere completamente con loro, lavorando, prendere rischi e anche le conseguenze di questi rischi. Allora mi fa un po', mi metto in un altro, nella stessa testa che avevo quando avevo 16 anni. Questo è molto importante per non diventare un pane duro, per non diventare un pane vecchio che si mette con, non lo so, con e anche per ascoltare musica, per riscoprire le canzoni che sono importanti nella mia vita e utilizzare tutte queste canzoni, anche quelli strani, per le loro performance. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Mika. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.